L'effetto dei tagli, del blocco del turnover, i poliziotti a Roma, a fronte di 2.000 che erano stati richiesti, hanno lavorato in 850, circa 900 persone, per oltre 15 ore, di fronte a giovani che si sono presentati in formazione a testuggine. La stessa formazione a testuggine era presente a Roma, a Milano, a Torino, a Padova, a Brescia, il che significa che c'è una regia a monte che in modo premeditato e in modo militare ha preparato quel tipo di comportamento all'interno di una manifestazione. Noi abbiamo avuto a Roma 16 feriti, tutti fatti con le bombe carte. Abbiamo rinvenuto picconi, catene. Se noi andassimo a dragare oggi il fiume Tevere, troveremmo una vera e propria Santa Barbara. Con questo non voglio dire o negare che ci possa essere stato qualche poliziotto che sia andato oltre